È un discorso storico perché apre alla pace e alla democrazia, è un discorso che parla di disarmo di tutti i gruppi collegati al PKK e dello scioglimento dello stesso Partito dei Lavoratori del Kurdistan. La stessa immagine di Öcalan circondato dai politici curdi del partito Dem e da altre figure come avvocati e tutta la delegazione che ha annunciato questa svolta storica per il PKK sono completamente inedite, nel senso che era da oltre 10 anni che non vedevamo Öcalan in una fotografia, quindi adesso finalmente sappiamo per esempio che è in buone condizioni di salute. E poi richiamano la sua lettera dal carcere del Norus del 2013, dove appunto parlava di fine della lotta armata, di disarmo. Questa volta fa un passo avanti dicendo che bisogna addirittura sciogliere il partito che lui stesso ha fondato. Evidentemente con questa dichiarazione avrà delle conseguenze molto significative sia sulla politica turca che sulla politica siriana. Da un punto di vista della politica turca, già da ottobre andavano avanti dei negoziati che erano stati promossi con la mediazione del leader del partito nazionalista MHP, Devlet Bahçeli, alleato politico di Erdogan, proprio perché lui stesso spingeva per un discorso di Öcalan al Parlamento turco in cui chiedeva la fine della storia, della parabola politica del PKK. Si spera che questa dichiarazione, questa iniziativa non venga manipolata dai politici turchi, da AKP, ed è evidentemente questo un rischio. Lato positivo potrebbe essere finalmente una normalizzazione dei rapporti tra i partiti di maggioranza e la sinistra filo-curda del Partito Democratico dei Popoli HDP prima e di Dem, che ora si chiama Dem oggi, e quindi per esempio la fine degli arresti dei sindaci che operano nelle municipalità del sud-est della Turchia, quei sindaci che fino a questo momento hanno avuto grandi difficoltà ad operare, oppure per esempio il rilascio degli ex co-leader di HDP, Selahattin Demirta, Cefigen Yüksekdag. Quindi più in generale un rispetto di quelle dichiarazioni che erano state lanciate nel 2015 nella dichiarazione di Bamal Bache per una normalizzazione dei rapporti con i curdi. Allo stesso Öcalan nella dichiarazione di ieri parla di pace e democrazia, come se il suo discorso politico volesse superare poi il centro anche del concetto di autonomia democratica, la rivendicazione di avere uno stato curdo, ma si volesse concentrare invece sull'autonomia democratica, appunto su diritti, possibilità di governo, come poi il progetto dello Java. Per quanto riguarda la Siria, il discorso è più complesso, perché ovviamente noi ci troviamo in un contesto di transizione con Öcalan, che invece si fa chiamare Ahmed al-Shara, alla guida di Hayat Tahrir al-Sham, che ha il potere a Damasco. Allora a questo punto questa dichiarazione potrebbe portare al disarmo delle unità di protezione maschili e femminili, YPG, che abbiamo imparato a conoscere, che combattono in Rojava, e più in generale delle forze siriane democratiche guidate dai curdi. Questo rientrerebbe in un discorso più ampio che è stato fatto dal Shara, che porterebbe alla formazione di un esercito unitario siriano. Quindi in questo caso anche le forze curde dovrebbero essere incluse nell'esercito unitario siriano, che dovrà essere creato, ancora non esiste per adesso. Il lato positivo anche qui potrebbe essere una minore aggressività turca nei confronti del Rojava del nord della Siria. Ricordiamo le operazioni Ramoscello di Olivo, Sorgente di Pace, Blocco dell'Artiglio, che hanno portato all'occupazione del cantone di Afrine, e anche i combattimenti degli ultimi mesi. Dopo la presa del potere di Öcalan a Damasco ci sono stati scontri a Mandija, a Tishrin, quindi è evidente che degli aspetti positivi potrebbero venire anche da questa iniziativa, però è tutto da vedere. Per esempio una delle richieste avanzate da Ankara è che vengano rimossi, arrestati almeno 2.000 militanti delle forze siriane democratiche, perché sono considerate come strutturate o comunque sovrapponibili con il PKK. Quindi il primo passaggio dovrebbe essere l'arresto o comunque l'allontanamento di almeno 2.000 esponenti miliziani che sono impegnati nelle file di YPG. Poi l'altra richiesta che viene da Ankara è quella della normalizzazione del Partito Democratico Unito. Addirittura sono state fatte pressioni attraverso il governo autonomo del Kurdistan iracheno affinché lo stesso Barzani chiedesse a SDF di includere i partiti curdi all'interno di un discorso nazionale siriano, in qualche modo sul modello dei rapporti federali che ci sono tra Baghdad e Erbil. Al-Shara ha fatto sapere che lui non è interessato ad avere uno Stato federale in Siria, però potrebbe accettare nella nuova Costituzione di dare più diritti ai curdi e anche una sorta di sistema amministrativo decentrato del Rojava, simile a quello che succede nel nord dell'Iraq. Sono in corso in Siria colloqui per affrontare questa questa fase di transizione giuridica, anche di questioni giudiziarie che devono essere affrontate, così come nella questione della nuova Costituzione, della formazione di un esercito unitario nazionale in questa fase. Non tutte le posizioni hanno preso parte a questi colloqui, ricordiamo che proprio della Siria era aperto il capitolo Israele, e le forze dell'esercito israeliano dicono che non, l'esercito siriano non potrà andare al di sotto di Damasco, quindi evidentemente si apre un scontro diretto, anche perché Tel Aviv vede in HTS un'estensione della Turchia, sono stati i turchi che hanno permesso ad Ahmed al-Shara di arrivare al potere a Damasco. Forse per concludere possiamo dire che proprio la presa del potere da parte di al-Shara e di HTS a Damasco ha aperto le porte a queste dichiarazioni di Öcalan, cioè una sorta di normalizzazione, perché ora la Turchia, con la fine di Bashar al-Assad in Siria, non si sente più minacciata dal Rojava e dal progetto del nord della Siria. Vedremo se queste dichiarazioni sono dichiarazioni che hanno la finalità di manipolare la lotta curda, che ricordiamo va avanti da 40 anni, un conflitto che ha portato 40.000 morti, se questo avrà anche degli effetti regionali. Per esempio, una delle critiche avanzate in Siria dalle SDF, che questo porterà ad un rafforzamento di ISIS e dei jihadisti in Siria. Quindi vedremo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, quali saranno le implicazioni degli annunci di Öcalan, se verranno applicati completamente, se veramente avremo di fronte la fine del PKK per come lo conosciamo.